nulla sarà come prima. Lascio il sorriso per piangere, sciolgo i ricordi nel vino. Forse era scritto che tra di noi proprio non era destino. Tu che sei stata mia. Alla festa del suo matrimonio, noi ballavamo sulla sabbia, illuminata con il fuoco. E lei, ancora in abito da sposa, imprevedibile sorpresa, lanciava sguardi verso me. Facendo vieni con me lontano da sguardi indiscreti, dentro la stanza degli ospiti ho ritrovato i suoi baci. Tu che sei stata mia, se ci scoprisse tuo marito.